Credo in un solo Aaron, quarterback onnipotente, creatore di drive e di touchdown, di tutte le ricezioni possibili e impossibili. Credo in un solo giocatore Aaron Rodgers, figlio di Brett, nato da Bart prima di tutti i secoli. Aaron da Aaron, Brett da Brett, Bart Starr da Bart Starr. Allenato, non pompato, da quel genio di Vince Lombardi. Per mezzo di lui tutte le stagioni sono state dominate. Per noi tifosi e per la nostra gioia discese dalla California e per opera di Jordy Nelson si è incarnato nello spirito dei grandi quarterback e si è fatto eroe. Fu crocifisso per noi sotto avversari spietati, perse e fu saccato, e nel primo turno di playoff è resuscitato secondo il destino ed è salito al comando e siede alla destra di McCarthy. E di nuovo verranno nella vittoria per zittire i critici e i detrattori e il loro regno non avrà fine. Credo nello spirito di Aaron, che è signore e dà la palla, e procede da Randall e da James, e con Randall e il James è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei completi. Credo in Green Bay, una città gloriosa e storica. Professo un solo giocatore per il perdono delle sofferenze, e aspetto la resurrezione della offense e il trionfo nel Super Bowl che verrà. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 42. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt. Ciao Sal. Dai, non mi devi fare quella voce perché abbiamo iniziato con la preghiera di Felice Nessuno, quindi adesso siamo tutti carichi. Mai come in queste case è indicata quella preghiera e mai come in questa casa continuiamo a crederci. Che se ne dica in giro, ci crediamo ancora. Anche perché appunto noi iniziamo con questa preghiera proprio perché noi sappiamo di avere il miglior quarterback della NFL in squadra. Questo non vuol dire che quando gioca mai male... Mai detto il contrario. Esatto. Poi vabbè, la gente capisce quello che vuole e spesso e volentieri non capisce a prescindere. Comunque, cercherò di essere poco polemico e possiamo cominciare a parlare di quello che sta succedendo. Anzi, prima facciamo così. Diamo la parola al coach, visto che inizia sempre lui, e poi ritorniamo noi, va bene? Perfetto, vai coach. Buongiorno Packer fans. Ehi, volevamo proprio celebrare per il mio 50° compleanno un'altra conference title. Purtroppo non è successo così. E Minnesota Vikings ci battono 20-13 con una prova ottima, o pronti per i playoffs della difesa. Difesa che vedo estremamente bene, guardando ai numeri di Adrian Peterson, di Bridgewater. Abbiamo contenuto molto bene il loro attacco. Parliamo di nostro attacco. Si vede Aaron Rodgers un po' con un piglio un po' diverso, però non abbiamo ancora risolto, non siamo ancora healthy con la linea d'attacco. I receivers assolutamente non mi soddisfano. Dobbiamo ripartire da zero l'anno prossimo. Però faccio un azzardo in questo momento, visto che io ho visto gli anni 70 dei Packers, ho sofferto gli anni terribili. Io faccio un azzardo: se noi riusciamo a battere i Redskins, e penso che saremo un 28-14 per noi, noi andremo a Seattle e batteremo anche Seattle, e poi dopo si vedrà. Io penso, parlo in questo momento col cuore, non pensando ad altro. E noi Packer fans abbiamo dei grandi cuori, facciamo ad esempio di Martin Crosby, il gioco eccezionale ha fatto alla fine della partita per tenerci lì e darci un'ultima chance. Io penso che i Packers, se riuscissero a tornare i Packers 6 vinti 0 persi dalla prima parte del campionato, possiamo fare della strada. L'ultimo tempo perdere con Minnesota, con Chicago, con Detroit, questo non sono i nostri Packers. Dobbiamo guardarci a fine campionato. Però ricordiamoci, come dicono tutti i bravi allenatori, questo è un nuovo campionato. Il playoffs sono 0 vinti, 0 persi. Siamo tutti pari, fratelli. Adesso vediamo. Redskins è una buona squadra, molto quadrata, però penso che i nostri Packers, se ingranano la quinta, staccheranno una vittoria. Poi andiamo a Seattle, abbiamo una revincita di fare, però non guardiamo a Seattle, guardiamo a Washington. 28-14 Packers, go Pack go. Grazie fratelli, buona serata. Eccoci qua, grazie coach, ci piace quando sei positivo. Esatto, finalmente un po' di positività. Sali, io te lo dico, cioè, per fare non è che io e te abbiamo la palla di vetro e possediamo la verità assoluta, magari. Non saremo qua, io seduto in cucina e tu magari seduto sul tuo studio a parlare. Però noi ci piace dire la nostra e poi se qualcun altro la pensa in maniera diversa, è benvenuto a dire in maniera diversa, E se vuole ovviamente. esprimerla in maniera civile, tra le altre cose. Esattamente. Comunque. Aperta e chiusa parentesi, abbiamo perso la division. Porca Si è paletta. sempre detto che tanto la division non conta un cazzo, noi l'abbiamo persa, quindi. Dai, questo qui è un po' No, di no. spin. Vabbè, abbiamo perso la divisa, siamo riusciti a perdere una partita contro le Viking, una partita nella quale la difesa ha giocato come, secondo me, meglio non si poteva, insomma, se andiamo a vedere le statistiche, Adrian Peterson 67 yard di corsa, Teddy Bridgewater 99 yard di lancio, total offense di Minnie 241 yard, praticamente metà yard sono venuti da un fake punt dove Bachman ha dormito, tra l'altro nel primo drive della partita, quindi anche un po' di cojones da parte di Zimmer in questo caso. Vero anche che erano i playoff, quindi se non è che si giocassero vita e morte. Quindi. E da una jet sweep dello stesso giocatore, T. Thielen, ok, quindi qua sono arrivati almeno 60 yard, mi pare di ricordare complessivamente. Sì, qualcosa del genere. Non lo so, tu come l'hai vista? Allora, è stata una gara ciapa no, nel senso chi giocava peggio, insomma, chi ha giocato un po' meno peggio ha vinto più che chi ha giocato meglio, perché loro 242 yards totali in attacco. Noi, pur avendo la palla per 35 minuti e 42 secondi, abbiamo fatto 2 su 15 sui terzi down, abbiamo fatto 3 su 6 sui quarti down, e qui c'è la nota storica. È la prima volta dal 1951 che i Packers provano a giocare così tanti quarti down. Tutte le volte in cui, insomma, abbiamo provato a giocarle più di 5 volte nella storia abbiamo sempre perso. Stavolta è andata anche discretamente bene perché abbiamo perso di 7, sempre per la Sì, pochezza dell'attacco avversario. 2 su 15 start down mi pare una bella statistica comunque. Sì, è la statistica più bassa della stagione, per cui, cioè, voglio dire, ti ricordi dopo la partita di San Diego che San dicevamo il Diego. problema è l'attacco? Il Eh problema è sì, rimasto ricordo. l'attacco. Il problema è che secondo me, beh, io e te sicuramente no, però neanche dall'altra parte del mondo del Wisconsin riescono ancora a capire quale sia il vero problema, che poi ci sia un concorso di fattori ormai è ovvio, ok? E dopo magari li elenchiamo. Però voglio dire, se qualcuno lo sapesse, si faccia avanti, gli vada a bussare o suonare il campanello al 1275 di Lombardy Avenue, magari usiamo Fernando che è già là. E lo dico perché comunque se adesso c'era tempo per capire qual era il problema e per risolverlo, a questo momento il problema, cioè, il tempo è scaduto perché domenica o si vince o si va fuori. A proposito, piccola Quindi. parentesi, visto che l'hai citato, Fernando, sei il mio idolo assoluto incontrastato, ti voglio tanto bene. Ah, aiuto, hai fatto outing. Sì, no, ho detto che gli voglio bene, però non che lo Ah, ami. An vabbè, ancora non lo ok. amo. E quindi cioè, non, cioè, noi durante la settimana ci ascoltiamo qualcosa che viene dal Wisconsin, insomma, tra podcast o leggiamo vari siti, blog, giornali, ok? E non c'è nessuno che capisce qual è il problema, ma non lo capiscono gli stessi giocatori. Stessa dichiarazione di Rodgers dopo la partita, per quanto possono essere opinabili certe dichiarazioni che fa, we have to prove ourselves, we can win big games. È vero, lo sappiamo che lo sapete fare, benissimo, dimostratelo, dimostratelo. Josh Sitton che ormai parla di disconnect on an entire offense, quindi cioè, le dichiarazioni che arrivano dai senatori della squadra sono in quel senso lì. Mi piace citare Bakhtiari che ci fa concorrenza con un podcast settimanale in una, sai che non so se sia una birreria o sia un negozio, guardando. E chi dice all I need is a ticket to the dance and then you get there anything goes. A Quindi è verissimo perché una volta che sei ai playoff. me piacerebbe che il ticket ce l'avesse anche Bakhtiari in quanto tale, cioè che possa giocare, perché poi magari, insomma, le cose un Beh, po' migliorano. sarebbe molto molto importante, guardate, che forse l'abbiamo tutti quanti, forse l'abbiamo un Sottovalutato, po' sì. sottovalutato e sicuramente non ha la sua miglior stagione da quando è i Packers, però è Ha anche giocato vero che è infortunato da infortunato. sempre, per cui Esatto, questa. però è anche vero che sinceramente, soprattutto nel passing game, magari nel running game è il suo tallone d'Achille, ma nel passing game sicuramente il suo l'ha fatto. Qualche holding ovviamente l'ha commesso, però ci sta, ci sono anche gli avversari. Non lo so, della difesa abbiamo detto, 241 di total offense dei Vikings, 2 su 11 sui terzi down, 13 punti concessi perché 7 sono arrivati dal turnover del fumble di Rodgers e un turnover da parte della difesa. Di più la difesa non si poteva chiedere, mi pare Non saprei neanche. Sì, è tornato anche Matthews che ha avuto insomma delle buone prestazioni rushando all'esterno. Sì, tackle for loss anche avuto, quindi. La No, piccola no. cosa che si può dire, per esempio, è che Hayward nella 3-4 base era di nuovo il cornerback esterno titolare e Secondo me, dall'altra parte. scusami, ti interrompo. Secondo me li hanno rotati, però. Sì, Secondo me, li hanno rotati un po' tutti in pratica quanti. c'era Hayward da una parte nella 3-4, che comunque usiamo poco, e Randall e Rollins invece si alternavano dall'altra parte Ah, nella 3-4, perfetto. mentre invece poi nella nickel Hayward passava lo slot con Randall e Rollins all'esterno e nella dime entrava anche Hyde che ha fatto quell'intercetto clamoroso e non contento ha anche recuperato il fumble provocato da Crosby nei special teams. Quando due giocatori in difesa e in special teams fanno questi numeri qua e tu non riesci ad avere un minimo di momentum per ribaltare la partita, sinceramente è un po' triste. Tra l'altro vorrei citare anche la dichiarazione di Joe Thomas, che ha detto, il nostro obiettivo di solito quando... Il left tackle dei Browns. magari. Il nostro dime linebacker ha detto, il nostro obiettivo di solito è non concedere più di 17 punti, ma possiamo e dobbiamo fare di più. Cioè, della serie, se concedi 17 punti di solito con questo attacco vai bene, quest'anno no. Perché, per esempio, vabbè, 18 punti contro Detroit abbiamo perso, 24 punti contro Arizona, che è una grande squadra, di cui 7 arrivati dopo il fumble di Starks, che li ha messi nel basso della end zone, e 17 punti contro Chicago abbiamo perso. 17 punti sono troppi, probabilmente si dovrebbe fare uno shootout ogni volta per avere la possibilità di vincere 3-0, non lo so. Incredibile, incredibile. Sì, tra l'altro noi come titolo della puntata metteremo qualcosa riguardo al fatto che Rodgers è il nostro problema e la nostra soluzione. Voi dateci degli eretici, dateci dei coglioni. Io le Dei partite l'ho vista in questo modo. Sì. psicopatici, dei traditori, dei Ah, te troll, l'ho detto che mi fai dei. pena, Matt? Sì, esatto. Vabbè. Voglio dire, è un dato di fatto, ne abbiamo parlato anche diffusamente nella scorsa puntata che poi ci ha tirato le ire e tutto il resto. Lo paghi 20 milioni, è un quarterback che può fare onestamente meglio di così e nell'ultima partita, come abbiamo messo gli screenshot su IPFN, potete vederlo, Grande lavoro, Sal. sono un nerd di merda, lo sai, è stato messo nelle condizioni di liberarsi prima del pallone con tutti i dump off che poteva fare per il Kuhn o lo Starks di turno, non l'ha fatto, ha sempre guardato sul profondo per cercare cose che non c'erano. I ricevitori sono stati liberi, gli sono state messe anche delle crossing routes, delle mesh concept in cui avrebbe potuto trovare lo spazio per fare il primo down, mentre invece molte volte, soprattutto anche sui primi e secondi down, guardavo sul profondo cercando il big play che poi non arrivava e ti trovavi in situazioni di secondo e terzo e lungo e non facevi una minchia. Che in questo momento non siamo in grado di superare. Esatto. E quando Jones era lì, Jameson era riuscito a liberarsi del cornerback, è un lancio underthrown anche lì. C'era Starks che aveva una prateria davanti, sempre come check down, e avrebbe tranquillamente chiuso il primo down di sicuro perché era un quarto e 5, non era un quarto e 26. Sì, come minimo c'erano 20 yard da prendere, come Esatto. minimo. Però si è provato sul profondo, lancio tra l'altro in ritardo, corto, eccetera. Poi, altro quarto down sull'intercetto, aveva non so quanti metri all'esterno per lanciare il pallone, l'ha lanciato dove non doveva lanciarlo, cioè sul cornerback. E si può dire i motivi per i quali lui giochi così, perché non è tranquillo, perché questo, perché quello, però obiettivamente noi vediamo quello che c'è in campo e quello che c'è in campo è che lui intanto non fa nessun favore alla sua linea offensiva perché tiene il pallone un'eternità, anche quando potrebbe liberarsene per i check down, eccetera. In secondo luogo sbaglia lanci che non ha mai sbagliato e quello che ne risulta è un passer rating di 81.1, adesso non ho aggiornato il dato perché Dopo il bye. esatto, dopo il bye. Che lo rende tecnicamente uno dei peggiori quarterback a livello di prestazioni di questa NFL. Beh, sicuramente a livello di numeri il peggior quarterback presente ai playoff, numericamente parlando. Per quanto riguarda quarterback rating totale della stagione, Rodgers ha 92.7, Jay Cutler 92.3, abbiamo detto tutto. Visto che io sono l'unico tra l'altro che difende Cutler, quindi per l'amor di Dio. Quindi. Però poi. comunque questi sono i numeri, questi, cioè, non è che sono quello che pensiamo io e te, questa è matematica. Ha subito molti più sack più sack sopra i 50 in altri anni ed ha avuto medie di completi maggiori ed ha avuto yards per completo migliori. Succede di avere delle linee offensive che non sono come dovevano essere quando si è costruita la squadra, perché se sono tutti infortunati, ma tutti dal primo all'ultimo, che cazzo ci devi fare? Io sfido a trovare una squadra che abbia altri 5 pronti a subentrare e che non facciano sentire un drop off rispetto ai titolari. Poi io, per carità, io sono dell'avviso che lui sia sano, cioè che il problema che abbia se proprio sia mentale, ma fisicamente sia a posto. Cioè, se per caso fossi infortunato, avrei una risposta, ecco, tra Sì, l'altro, una sarebbe prima molto risposta. bello, ecco, che fosse così perché almeno lo sai, come dicevamo anche l'altra volta. Però non penso che sia lesa maestà dire che Rodgers non sta giocando da Rodgers, perché uno, Rodgers è diventato Rodgers, e lo so che molti avranno già sentito queste cose, però purtroppo sono quelle che penso. È diventato Rodgers giocando dietro linee che non erano assolutamente quella dell'anno scorso, e ha sempre fatto la differenza con le sue decisioni, con la sua intelligenza, come ci ha scritto anche qualcuno ieri nei commenti, e non la sta facendo. Poi i motivi andranno ricercati, però se noi vogliamo impostare la discussione più o meno come la staranno impostando anche loro nella squadra, ossia cosa è andato male, chi non ha performato, come migliorare, è un conto. Se poi invece vogliamo semplicemente mettere la cosa con un Fire McCarthy, per carità, possiamo anche farlo. Poi non ci aiuterà a vincere la partita domenica prossima. Assolutamente no, e comunque mi ho sempre detto, McCarthy sicuramente è un buon coach e tu mi dirai, ecco, essere buoni o essere good è il più grande nemico di essere great, probabilmente è vero questo, ok? Però puoi anche cambiarlo dopo 10 anni, McCarthy, no, no, assolutamente, non si può mica dire, anzi, forse ci starebbe dal punto di vista fisiologico, ma non è sicuramente il problema in questo momento. Perché ovviamente le colpe ce l'ha il coaching staff, ce l'hanno chi che prepara il game plan, ce l'ha chi chiama i giochi in questo momento, perché neanche loro sono esenti da colpe. Però il fatto di sottolineare che Rodgers in questo momento non stia giocando come ci è abituato, non è appunto, come hai detto te, lesa maestà. Io, dato che tanto non ho remore, mi spingo fino a dire che non solo non sta giocando come ci è abituato, ma non sta giocando come un quarterback starter nella NFL. Come ho detto l'altra volta, chi è Dai, i stato. numeri sono I numeri abbastanza sono quelli, eh? C'è un impietosi. cazzo da fare. Come ho detto, chi ha un passer rating di stagione peggiore di quello che lui ha avuto dopo il bye non gioca più. Adesso è rientrato Manning, che era l'ultimo in questa classifica, ha giocato discretamente bene, ma. E ha giocato bene perché, sai perché? Perché si è accontentato di quello che il campo concedeva. Ha Ecco. fatto andare il running game che non stava andando da nessuna parte in quel momento della partita e l'ha fatto andare e si è accontentato di piccoli guadagni di quello che gli concedeva la squadra avversaria. Cosa che palesemente non ha fatto Rodgers domenica, per esempio, e si vinceva tranquillamente con anche solo 2 di quelle 10 azioni che abbiamo messo sui PFN, secondo me. Ah beh, abbiamo avuto 2 volte il drive per andare ai supplementari, quindi dopo, per l'amor di Dio, i numeri dicono che erano tutti dalla nostra parte per quanto riguarda il resto. Tanto numericamente parlando, siamo stati battuti da tutte e tre le rivali divisionali, non abbiamo detto in casa, non succedeva dal 68, anche se era successo che avessimo perso in casa nel 91 da Detroit, Chicago e Minnesota, però nel 91 non c'era la NFC North, ma c'era la NFC Central e quindi c'era anche Tampa Bay, con Tampa Bay abbiamo vinto, quindi Poi, se non formalmente dal sbaglio, non erano tutte e 68. 3 al Lambo, ma ce n'era stata una al Milwaukee County Stadium, per cui Ah, sicuramente. questo non lo so, ma può darsi che tu abbia assolutamente ragione. E quindi, appunto, dire che uno dei problemi è il modo in cui Roger sta giocando. Non mi pare sia da mettere in dubbio. Cioè, io penso che solo qua da noi ci sia questo reato di lesa maestà, perché il fatto che Rodgers sia un grande quarterback non lo sta mettendo in dubbio nessuno, così come è un grande quarterback anche Manning, è stato preso per il culo per tutta la prima parte di stagione quando giocava perché giocava di merda. E allora vuol dire non riconoscere quello che ha fatto in carriera Manning? No, semplicemente non stava giocando bene. Rodgers non sta giocando bene e per quanto mi riguarda, che tanto me ne sbatto delle reazioni, eccetera, perché tanto i coglioni li blocco. È stato, secondo me, la partita di domenica è stato l'esempio del fatto che Rodgers non applichi il game plan che viene preparato, perché nel momento in cui ti mettono un sacco di check down e tu cerchi comunque sempre solo la profondità e te ne sbatti il cazzo dello Starks nel flat, del Kuhn nel flat e cerchi la profondità oppure ti prendi il sack, vuol dire che non applichi il game plan. Nel momento in cui McCarthy è partito con quelle due tight end set, anzi prima con la full house, e quindi con mi pare fosse Quarles, non Ripkowski, comunque Quarles e Kuhn come fullback e dietro Lacy. E poi nella seconda serie è andato con i due tight end, Vuol dire che sai che il tuo quarterback non sta facendo la differenza, obiettivamente. Ed eravamo quasi diventati una squadra come Minnesota, cioè una running first team. Poi non ha funzionato e, come ha detto McCarthy, ha abbandonato questo piano perché comunque le corse non stavano dando i risultati sperati. Però, per quanto mi riguarda, è abbastanza palese anche per loro e penso anche per Rodgers che non stia giocando al meglio. Poi, oh, adesso non so, probabilmente riceverò minacce di morte a casa, però è Allora, troppo sempre. sicuramente le prestazioni di Rodgers sono una delle colpe, non penso, la principale, perché la principale penso sia da debitare all'infermeria che abbiamo praticamente come offensive line. Ma Domenica abbiamo posso fare un avuto, piccolo sì. inciso? I nostri infortuni non devono essere usati come scusa, come dice qualcuno, però quelli degli altri sì. Avanti. Abbiamo un infermiere ambulante come offensive line. Domenica abbiamo addirittura giocato, spostato Seaton, che non ha mai giocato forse in high school, forse come left tackle, perché mi pare che a UCF fosse una guardia, un right tackle, dove tra l'altro lui apriva le corse per l'anime, che poi era finito Detroit, non mi ricordo chi fosse sinceramente. Abbiamo giocato con Lane Taylor, che secondo me è la seconda start che fa, se non, o forse la prima che facesse in 2 anni, perché forse è entrato solamente l'anno scorso nella partita di New Orleans, dove ha giocato molto male, e comunque domenica il suo l'ha fatto, perché la intera solamente non è stato pessimo. E poi vabbè, in centro c'era Lisley, Lang e Bulaga. Lang è, secondo me, a pezzi. Ci sono stati snap dopo il gioco lui era in ginocchio e ci metteva 20 secondi a rialzarsi. Cioè, mi ha fatto bene, sinceramente, il poverino. Sì. Quindi sai che io lo adoro e devo trovare la sua maglia da qualche parte. Mi ha fatto pena e sta giocando distrutto. Tra l'altro, mi pare lui sia nella injury report come nel problemi alla caviglia. E dopo la stagione, mi pare debba operarsi all'entrambe le spalle, per dire la situazione in cui si gioca lui. Bulaga, allo stesso momento, è mancato la partita precedente, ha giocato questa qui. E ha tenuto sulla baracca perché non ha giocato male neanche lui, però sicuramente è infortunato. Motivo in più, in questo caso, visto la salute dei 5 ciccioni che ti stanno davanti, sarebbe modo o di correre o comunque di dare la via veloce per cercare di pesare meno sulle loro spalle. Ok, non lo stiamo facendo. Le prestazioni di Rodgers sono un altro problema. L'assenza di Jordy, ovviamente. Però non può incidere nella debacle dell'offensive dell'attacco come sta incidendo, perché comunque se l'anno scorso eravamo il terzo attacco e per punti segnati e il terzo total offense, mi pare fossimo l'anno scorso, la mancanza di un giocatore vai a essere il decimo, undicesimo, non puoi finire a essere il 31, Ecco, 32esimo attacco della Lega, quindi per l'amore di Dio. nell'economia di questa stagione ha pesato più che altro, dopo una partenza 6-0, l'assenza di Montgomery. Ecco, esatto. Rodgers aveva un passer rating di 158,3 quando lanciava verso Montgomery. Poi, per carità, il sample era abbastanza piccolo perché non è che abbia ricevuto 100 palloni prima di infortunarsi, però in ogni caso, quando lanciava verso lui riceveva. E E questo è comunque un po' stava mancato. diventando un punto importante dell'attacco e non solamente come di special team, come si pensava al momento del draft. A proposito, Ted Thompson, pazzo furioso perché alla terza ha preso Montgomery. Chiuso la parentesi. Continuando nelle cause che possono spiegare questi nostri problemi, potrebbe starci il play calling, anche se qui non possiamo saperlo perché uno non sappiamo il gameplay impostato nella settimana e due non sappiamo quanti giochi effettivamente vengono cambiati nella linea dello scrimmage da parte di Rodgers, quanti magari corse vengono trasformate in passaggio o viceversa. E abbiamo Ok? avuto l'esempio la settimana scorsa ad Arizona. Esattamente. E poi magari, ultimo, ci sta anche la confidence, nel senso, cioè, non riesci ad andare avanti, non riesci a vincere, non riesci a essere chi tu sei. E forse, come dice Lang, dobbiamo prendere coscienza di chi siamo. In questo momento siamo questi qua, cioè non c'è niente da fare, cioè, vuol dire, non siamo questi qui. Quindi cerchiamo di adattarci di conseguenza, probabilmente. Probabilmente non andiamo molto distante dalle cause della debacle offensiva di quest'anno. Quindi non stiamo dicendo che la colpa è solamente di uno, anzi, la colpa è ben distribuita. Obiettivamente, questa qua non è una squadra da rifondare su via. Abbiamo una difesa che sta giocando bene, No, ma e, scherzi, ma anzi, sta chi? giocando anche meglio delle aspettative, persino dei più sfrenati ottimisti. E l'attacco che vorrei rivederlo sano per cercare di capire che cosa può fare e che cosa no. I segni sono quelli che questo attacco doveva essere uno dei migliori dell'NFL. Per un motivo o per un altro non è stato così, ma sti cazzi, cioè, voglio dire. Diciamo che con i numeri della difesa e gli special team, un attacco mediocre potremmo, con un attacco mediocre potremmo essere una seria contender. In questo momento, con questo attacco, sono decisamente un outsider. Poi, voglio dire, appunto, Rodgers, probabilmente uno dei principali problemi, dai, io penso che sia il problema, però uno dei principali problemi per, insomma, venire incontro alle... vabbè, uno dei problemi, però, è anche la soluzione. Se Assolutamente Rodgers sì, continua a è la giocare, soluzione. se Rodgers La continua a giocare rimarco, così... la rimato, la ribatto. Aspetta, ti parlo sopra. È la soluzione di tutto questo, perché ovviamente è lui la soluzione che abbiamo. Sì, ovviamente, se lui continua a giocare come sta giocando, per tutti i fattori che, mamma mia, perché sennò poi, non andiamo da nessuna parte. Se Rodgers comincia, non dico a giocare come l'MVP 2011-2014, ma nelle sue medie di carriera, diciamo, anche sotto, si può Ma che sotto? fare. Sì, assolutamente. Si può fare tranquillamente. Ecco, noi ci stiamo dilungando un po' troppo, probabilmente stiamo cominciando a essere un po' ridondanti. Un Per cui, cosa ripetitivi. dici? Però era. No, andiamo avanti sicuramente. Quindi adesso, per l'amore di Dio. Però è per dire che, a parte il fatto che, come abbiamo iniziato con la preghiera del grandissimo Felice, noi comunque ci crediamo. E comunque il fatto che noi rimarchiamo questo discorso. Non è perché vogliamo essere pesanti o appunto, è perché insomma, è vero, cioè, i numeri parlano, non sono opinioni queste qui, cioè, il fatto non c'è lesa maestà, per l'amore di Dio, se una persona gioca male, come quando McCarthy fa la cazzata di non dare il gioco a Rodgers e quindi si devono chiamare il timeout verso le fine del quarto quarto e quindi ci siamo mangiati un timeout che era importantissimo e lì McCarthy giustamente ha sbagliato, non ha chiamato il gioco in tempo e quindi Roger non sono riuscito a settare la linea e l'attacco e ha dovuto chiamare il timeout e si è perso un timeout che era di fondamentale importanza. Ha sbagliato, punto. Cioè, non è che fondamentalmente la squadra è fatta di uomini, quindi cioè, come Thompson sbagli le scelte al draft, come cioè, sbagliata il play calling, anche il quarterback può sbagliare. Punto, capo. Non vedo che ci sia alcun problema. Negli anni scorsi ci ha salvato il culo? No, negli anni scorsi ha giocato come lui doveva giocare. Perché è giocato in quanto miglior giocatore dell'NFL, ok? E in quanto giocatore più pagato dell'NFL. Sì. Cioè, non è il fatto perché sei il più forte o cioè, devi essere esente da certe critiche. Anzi, forse è il contrario. Appunto perché sei il più forte e sei quello che può dare di più e sei pagato per questo. È giusto attendersi anche di più. Anche perché noi sinceramente non stiamo dicendo che Rodgers, anziché avere un rating di 114, ce l'ha di 112. Stiamo dicendo che il suo record in carriera in 9 quanti cazzo di anni ha giocato è 104, sta avendo un rating nelle ultime 10 partite di 81. 81 non ce l'ha neanche mia nonna. O Per Brandon cui, Whedon, che è la stessa cosa. Brandon Whedon, per cui siamo Se sempre. tuo nonno non si arrabbia, ecco. No, penso che Brandon Whedon pesi di meno di mia nonna. Comunque, a me sembra talmente palese il fatto che la star della squadra sia lui e debba performare da star, non perché deve per forza, ma semplicemente perché la squadra è costruita attorno a lui. Quindi, se non gira lui, non Esatto, gira nessuno. esatto. La È squadra da non è palissiano. impostata perché vinciamo per prendere un punto in meno degli altri. Perché la squadra è impostata per vincerla nel fare un punto in più degli altri. Perché la difesa nostra non è una difesa di quella dei Bears dell'85, ecco. È una difesa che deve consentire all'attacco di vincere la partita e l'ha praticamente fatto in tutte le partite quest'anno. Quindi non ho... Ed è incredibile come siamo qui a dire che l'attacco non riesce a mettere su 14 punti per vincere una partita. Perché domenica la difesa ha concesso 13 punti, con 14 punti la vincevamo, ne abbiamo fatti 13. Sì, e poi volevo solo citare, magari prima di passare anche a parlare di Washington, perché un minimo, le dichiarazioni di Rodgers nei 7 minuti di conferenza stampa dopo la partita. In 7 minuti, nella prima parte e nella seconda parte, ha detto due concetti che sono uguali, quindi vuol dire che ce li aveva proprio a cuore, ed è: quando cominciamo ad essere aggressivi, cominciamo a lanciare in profondità, buone cose succedono, good things happen. Dopo un po', praticamente abbiamo cominciato a buttare via la nostra precauzione e abbiamo cominciato a fare dei tentativi downfield e abbiamo fatto dei tentativi, facevo prima a dirla in inglese effettivamente, e abbiamo fatto delle giocate. Fondamentalmente quello che lui dice è l'opposto di quello che io ho visto, ossia che diceva se proviamo a giocare sul profondo succede qualcosa, mentre invece lui quando cercava sul profondo non succedeva un cazzo in realtà. E non lo so, a me sembra sempre che lui voglia far notare il fatto che non gioca come vorrebbe lui dal punto di vista del game plan. Cioè, se mi fate fare come dico io, vedrete cosa succede. Io ho visto cosa succede, un cazzo. Basta, non dico più niente perché Cioè, è sennò mi anche ammazza. vero che nel quarto quarto probabilmente le cose sono un po' migliorate, però ci sta un attimo che la squadra avversaria abbia, forse sia un attimo calata nelle prestazioni perché appunto è stato anche in campo tanto, ok? Che la disperazione ti faccia fare cose che prima non facevi, però è anche vero che nel quarto quarto è concesso quel intercetto che è una cosa immonda. Hai giocato con una palla lunga su. Hai giocato quel passaggio sul flat con 19 secondi alla fine su Richard Rodgers che non stava né in cielo né in terra. Cioè, è riuscito poi a lanciare quell'Elmery che per poco non lo prende ancora Richard Rodgers, ma quel gioco su Richard Rodgers precedente cioè, non ci sta né in cielo né in terra. Il gioco precedente c'era un wide receiver, aveva scossettato un wide receiver screen su Cobb, mi pare, che avrebbe preso tranquillamente 15-20 yard, ci portava sulle 20 con qualche secondo. Quindi avremmo avuto uno o due giochi sicuramente dalle 20, ok? E ha lanciato quella bomba su James Johnson in zone, che non è stata per poco intercettata anche quella. Cioè, ci sono delle scelte che proprio non stanno né in cielo né in terra. Proprio, ma zero, proprio assolutamente zero. Niente, dai, io mi aspetto teste di cavallo prossimamente a casa. Comunque, passiamo a Washington. Intanto, dove, come e quando? Giochiamo domenica, ore 22:40 a Washington, FedEx Field, come cavolo si chiama. Li chiamiamo Redskins o facciamo i puritani, diciamo Washington Football Team, visto che... Redskins, dai. Va bene. Allora, loro hanno concluso la regular season 9-7, sono i campioni, tra virgolette, della NFC East. Almeno Record hanno un record positivo, vincente, sì. quindi sì. Tutto inizia con Cousins, che è il loro quarterback, ha vinto la competition con Colt McCoy e quel povero RG3, ed è dopo un avvio un po' Ed era stato stentato. massacrato John Gruden all'inizio, eh? Esatto, sì. Scusami, Jay Gruden è stato massacrato per questa cosa, invece la scelta ha pagato al fine. E posso dire, nota di merito ad RG3 per come ha affrontato la stagione. Sì. Nessuna polemica, tra l'altro. Lo mettevano anche a fare la safety in allenamento, per cui insomma deve essere stato Esatto. abbastanza umiliante, però. Comunque, Cousins, quinto in NFL per passer rating in stagione, 101,6. Ogni confronto è impietoso quest'anno, mi dispiace. Primo in NFL per percentuale di completi, 69,8. Anche questo, ogni confronto è impietoso. Nelle ultime sei partite, ha avuto tutte e sei partite con più di 100 di rating. Quindi l'attacco gira abbastanza bene, molto bene, hanno un sacco di playmaker offensivi comunque. Noi possiamo anche dire però che il loro record di 9-7 è arrivato vincendo contro squadre con record negativo barra 500 e prendendo due scopole clamorose contro le uniche due squadre che poi sono andate ai playoff che hanno incontrato, cioè Carolina e New England, Sì, giusto? ecco, apro parentesi, visto che su Minnesota, Minnesota che ritengo non sia una corazzata e non sia una squadra al massimo decente, ok? Che nei 2 anni in cui Zimmer ha fatto head coach, e qua rubo un tuo post, e sicuramente a me piace Mike Zimmer, ok? Nei 2 anni che ha fatto head coach, le vittorie che ha avuto, e quest'anno ne ha avute 11, ok? Solamente una volta ha battuto una squadra con record vincente ed è stato domenica contro di noi e sappiamo come. Sì, poi ha battuto per esempio all'inizio della stagione quando sono partiti 1-5 anche i Chiefs, che poi hanno avuto quelle 10 vittorie consecutive, però l'unica volta in cui hanno battuto una squadra che arrivava alla partita con un record positivo e ha finito la partita con la stagione con un record positivo. Per cui, sì, non stiamo qua a parlare della nuova incarnazione di chissà che cosa. Insomma, è una squadra che fa quelle due cose e le fa bene, punto. Comunque, andando avanti, loro, secondo me, li dobbiamo temere, i Redskins, perché hanno un Beh, no, attacco. ma come? Non c'è tutti che volevano affrontarli prima, cioè, tutti volevano evitare Seattle, Minnesota, tutti volevano i Redskins. Leviamo subito ogni dubbio, perché per Washington domenica sarà un Super Bowl, perché per loro una vittoria nei playoff, che non so da quanto manchi, no, forse ne hanno avuta uno con RG3 qualche anno fa, forse, dove si è maciullato il ginocchio. Per loro sarebbe come vincere il Super Bowl, mentre per noi una vittoria domenica sarebbe come normale amministrazione. Siamo arrivati a questo punto qua. E quindi per loro sarà la partita della vita domenica. Sì, loro mi preoccupano in attacco perché, a parte Cousins che sta giocando bene, ha comunque diverse armi a disposizione a cui lanciare. Per esempio ha Jordan Reed, che è il secondo tra i tight end in quanto a ricezioni con 87, ed è praticamente descritto come un wide receiver grosso, cioè tanta roba come tight end. Hanno Deshaun Jackson, che pur avendo 29 anni, probabilmente corre ancora 4-3, 4-4, insomma, le 40 yard. Mission Jackson. Mi, perché mi è sempre papà. Speriamo che combini Mission. qualche cagata. Vabbè, che anche quando combinano cagate poi bisogna approfittarne, per cui non è che. E una minaccia sul profondo di quelle, insomma, Beh, clamorose. temibile, sì. E tra l'altro, pensando alle minacce sul profondo, mi viene in mente come Carolina ci abbia bombardato quando siamo andati a casa sua, per cui avrei un po' paura per questo, ecco. Perché poi lo so che succede che per una volta la difesa non ci salva il culo e dopo levate gli scudi contro Capers la difesa. Bon, andiamo avanti. Poi hanno Pierre Garçon, che è arrivato da Indianapolis. Onesto wide receiver. Esatto. E Jamison Crowder, che è un rookie, se non sbaglio, quarto o quinto giro, che sta facendo il suo, mi pare ultimamente sia stato più coinvolto nel game plan. Loro giocano. Queste cose qua non le so io perché io non ho mai guardato i Redskins, mi sono semplicemente Io li ho informato. visti una volta nel Monday Night contro Dallas, è stata una partita impietosa, proprio bruttissima. Loro giocano spesso con bunch formation, quindi i tre ricevitori ammucchiati da un lato della formazione, e per quanto riguarda le corse, che non sono il loro forte, hanno per lo più zone run, quindi non hanno il power play, e giocano molto con le play action e a Cousins, quindi all'offensive coordinator, piace provare le bombe sul profondo. Obiettivamente hanno chi si libera e chi corre dritto e forte, per cui possono farlo. In difesa invece giocano con una 3-4, per lo più cover 2, cover 3 o quarters zone, e non sono una difesa insomma particolarmente granitica perché sono 28esimi nella NFL per quanto riguarda le yards concesse 380 partita, però riescono a creare discreta pressione sui terzi down e spesso gli piace per esempio portare pressione praticamente senza tenere neanche una safety profonda. Sì, hanno, diciamo, come starting cornerback hanno Will Blackmon, che già noi giocava 10 anni fa e che ha fatto praticamente faceva parte della secondaria della Legion of Boom, ma era tipo il quinto, sesto cornerback, quarto Sì, più o meno, onesto sì. mestierante anche lui, dai, alla fine, Onesto, 10 anni che miserante, gioca. esatto. No, hanno due safety interessanti, DeAngelo Hall e DeSean Goldson, però anche loro. Sì, non sono particolarmente bravi, diciamo, a difendere le corse perché hanno una media di yards per portata di 4,8 concesse. E soprattutto nella nick e nella dime, quindi mi verrebbe da dire che se non fossimo un attacco disfunzionale ci mettiamo con l'11 personnel e corriamo tutta la vita dalla pistol, ma vabbè. Penso che sia una partita che è stata un po' sottovalutata da chiunque e secondo me è meglio comunque non giocare al Lambo in ogni caso perché abbiamo visto ci si ritorce contro un po' come dicevo, tra l'altro ha scritto anche Silverstein in questa settimana, io lo anticipo per cui. Però non lo so, ho un po' paura, nel senso se dovesse finire per essere uno shootout. Aiuto, aiuto. Shootout addirittura. Cioè, secondo te non è una squadra che si batte da sola, è una squadra che ha i suoi punti deboli e quelle poche cose che fa le fa discretamente. Difesa, cito Ryan Kerrigan, sicuramente forse il linebacker è quello più forte che hanno. Ok, e un bel ciccione in mezzo che è Tennis Knighton, che arriva dai Denver e prima ancora da Jacksonville. E davanti fanno quelle tre cose: corsa, corsa, play action, corsa, tight end, corsa, e non si battono da soli. Per cui sì, sarà difficile, sarà complicato. Noi in trasferta quest'anno, nonostante tutto, abbiamo fatto bene perché 5-3 in stagione come in casa. E tra l'altro in trasferta poi in realtà abbiamo perso contro il seed numero 1 della NFC, ossia Carolina, contro il seed numero 1 della AFC, ossia Denver. E la terza l'abbiamo persa Il sito numero contro. 2 dell'NFC. Ah, giusto, Arizona, sì, avevo rimosso. Quella partita ho cercato di rimuovere in tutti i modi. Per cui insomma, stiamo parlando comunque di una squadra abbattibile, per carità. Bisognerebbe che giocasse anche l'attacco. Ecco. E tra l'altro, scusami solo una nota perché ho letto il post sulla domanda di Paul Neuerhaus, solo che l'ho letto adesso, per cui purtroppo non possiamo rispondere alla sua domanda, che era relativa alla storia di chi da quinto seed insomma, è riuscito ad andare al Super Bowl a vincere, eccetera. Io a memoria mi ricordo soltanto che due squadre hanno vinto il Super Bowl da seed numero 6. Che siamo stati Noi noi nel 2010 e gli Steelers, mi pare l'anno prima. Ecco. l'anno prima. Poi a memoria, sinceramente, queste altre cose qua non me le ricordo. Ci guarderò, magari poi ti rispondo, insomma, sotto il commento. Scusa, ma. Non abbiamo fatto i compiti per casa. Esatto, no, è perché, insomma, per una volta abbiamo registrato di mattina e il commento è arrivato stamattina, per cui non. Vabbè. E per cui facciamo i nostri pronostici. Vuoi aggiungere qualcosa? No, non so cosa dire in più di quello che vi hanno detto, però è stata una stagione frustrante, diciamo, adesso che vada come vada, adesso magari arriviamo a Santa Clara, magari. È stata una, boh, potrebbe essere l'ultima puntata con i Packs ancora in corsa. Allora, siamo partiti con pieni di entusiasmo, pieni di speranze, siamo partiti, e forse non ci siamo gustati the ride. Anche se pensiamo che questa ride andasse un po' più lontano, non ce la siamo magari pienamente gustata, perché alla fin fine una stagione NFL dura 3 mesi e un'off-season ne dura 9. Quindi magari andrebbe gustata un po' di più, però per l'amore di Dio, no, non saprei cosa aggiungere in più. Pronostico, io lo faccio o non lo faccio? Guarda, secondo me perdiamo. Addirittura tu, No, è ma no. semplicemente che i segnali che Cosa avevi arrivano. detto domenica te? Io avevo pronosticato una vittoria 21 a 20, eh. Ci sono andato distante, Io avevo detto 45-42 eh. per noi. Eh beh, ci sei andato, c'eri là, cioè, più o meno c'eri. Ah, 17-14 Packers, via. E dopo andiamo ad Arizona. Secondo me perdiamo 28-20, dai. Mi dispiace, insomma, non è semplicemente essere sceso dal carro, eccetera. Cerco di essere razionale. Irrazionalmente dico che gli facciamo il culo, ovviamente. Però Però con questo Aaron Rodgers, sinceramente, non vedo molti margini. Tutto magari c'è ancora tempo per stupirci. qua. Sì, Chi lo sa? Finché c'è io. vita, c'è speranza. Io irrazionalmente ci credo sempre, cioè secondo me vinciamo il Super Bowl irrazionalmente, razionalmente siamo questi, tutto qua. Lasciamo la parola a Felice per gli ultimi minuti della trasmissione e chiudiamo con Go, pack, go. sempre no matter what. Ciao, Ciao, grazie. ciao, ciao. Ciao a tutti, qui da Felice Nessuno, sempre qui su IPFN. La nostra stagione regolare si conclude con una sconfitta, e la sconfitta ci porta a perdere il titolo divisionale della NFC North dopo ben 4 anni di dominio. Questa sconfitta, dopo quella con Arizona, ci dà ancora di più la sensazione fondata che la nostra stagione regolare sia andata su e giù, su e giù, su e giù, come le mutande di una prostituta la sera di San Valentino. E purtroppo è proprio lì che rischiamo di mandare tutto domenica prossima, a puttane. Sembra proprio di essere sulle montagne russe in questa season, perché il nostro andamento è stato quello proprio come nelle giostre. Abbiamo cominciato con 6 vittorie, raggiungendo il punto più alto, e come tutti sappiamo, più alto vai, più veloce è la discesa, che è proprio quello che ci è successo nelle successive 4 sconfitte. Il resto delle partite poi è stato un susseguirsi di alti e bassi, che con queste ultime 2 sconfitte ci ha portati a terra alla fine del giro. La nostra fortuna è che in queste montagne russe, verso la fine della corsa, siamo riusciti a prendere la coda premio che ci permette di fare un altro giro, altra corsa, e di mettere tutti noi stessi in questa post-season che più che una montagna russa sembra una salita di una parete montuosa in cui purtroppo ne usciamo senza corda di sicurezza. Qualche tempo fa un grande amico e un grande esperto di Green Bay Packers mi disse la frase: "Non è finita finché non è finita". E quindi ragazzi, stringiamoci forte, Road to 50 che non è ancora finita e go Pack go! This is a club that's going to hit you. They're going to try to hit you. You're going to take it out. Just hit. Just run. Just block. And just tap. You do that, there's no question what the answer is going to be in this ball. Keep your poise. There's nothing that they can show you out.